La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, ben ritrovati, buon fine settimana agli amici della Rosa Purpurea, Radio 24, l'ora di cinema come ogni weekend. Un'ora per raccontare le novità in sala, per vedere tutto il cinema che c'è in televisione, ma anche per giocare insieme e provare a vincere come sempre splendidi film in alta definizione. E allora, cominciamo subito, settimana densissima, importantissima, grandi nomi, registi che arrivano in sala, da Spielberg a Zemeckis, ad Agnieszka Holland, a Dustin Hoffman addirittura, e quindi, come dire, materiale ce n'è tanto, riepiloghiamolo nei nostri titoli di testa. Incontro tra titani. Steven Spielberg racconta Lincoln. Arriva nelle sale italiane il colossal storico sugli ultimi 4 mesi di vita del presidente americano che ha cambiato la storia, abolendo la schiavitù. Grande prova d'attore per Daniel Day-Lewis e 12 nomination agli Oscar. Una casa di riposo per musicisti immersa nella campagna inglese. E un drappello di ex cantanti lirici e professori d'orchestra alle prese con una nuova ospite, una vera star dell'opera. Commuove e diverte Quartet, esordio alla regia di Dustin Hoffman, con un cast tutto inglese in cui spicca una grande Maggie Smith. Ha fatto un miracolo. Solo lui poteva far atterrare quell'aereo in avaria salvando quasi tutti i passeggeri. Ma il comandante Whip Whitaker è ugualmente alla sbarra, perché Whip è un alcolizzato. È la trama di Flight, il ritorno di Robert Zemeckis, un solido dramma aviatorio con un ottimo Denzel Washington. L'olocausto visto da un tombino. In occasione della giornata della memoria arriva nelle sale In Darkness, la storia vera di un operaio delle fognature di Leopoli che salvò un manipolo di ebrei dallo sterminio nazista, nascondendoli e facendoli sopravvivere per 14 mesi nelle fogne. Nomination all'Oscar 2012. Tassau Jet 227, siamo in una discesa non controllata, abbiamo lo stabilizzatore bloccato. Oddio, stiamo lasciando 7000, non vedo altro che case! Quando ti ordino di retrarre i flap, di ritrarre il carrello, devi trimare a picchiare, ok? Picchiare? Che vuole fare? Margaret, sì. Quando te lo dico voglio che spingi queste in avanti, manette fino in fondo, puoi farlo? Sì, ok, sì. Quando Aspetta, dico... comandante, che vuole fare? Perché trimare a picchiare? Lo dobbiamo girare, come chiaro? Sarebbe girare? Dobbiamo fare qualcosa per fermare la picchiata, Margaret. Come si chiama tuo figlio? Trevor. Di Trevor, ti voglio bene. Cosa? La scatola nera, di ti Trevor, voglio bene. Ti voglio bene, fai il bravo, la mamma ti vuole bene. Forza, siamo pronti, ho io il controllo. Oddio! Vai Evans, i flap. I flap. Aerofreni. Aerofreni. Margaret, motore. Carrello su. Carrello su. Insomma, che fosse una mattinata non delle migliori si era capito subito quel giorno quando Whip Whitaker, pilota di linea, navigato con il vizio però di alzare un po' troppo il braccio, si era trovato di fronte a una turbolenza dalla quale sembrava essere uscito brillantemente, poi invece a un problema meccanico dal quale era difficile uscirne vivi. E come abbiamo sentito, invece, l'esperienza, la classe, la capacità da pilota di Whip Whitaker aveva fatto il miracolo. Era riuscito a fare atterrare il suo aereo, un volo interno degli Stati Uniti, addirittura prima girandolo, navigando a testa in giù praticamente per riprendere la stabilità, poi rigirandolo di nuovo per planare in una zona lontana dalle case. Totale, su 102 persone sull'aereo 96 si erano salvate a vario titolo, con varie ferite, solo 6 erano morte. Un miracolo che nessun simulatore di volo aveva replicato. Era praticamente impossibile portare quell'aereo a casa quasi sano e salvo, almeno gran parte della gente che c'era dentro. Lui c'era riuscito, era un eroe per la stampa, per i media, per la gente, ma non per la struttura, l'ente preposto a vegliare, vigilare sulla sicurezza dei voli. Perché? Perché il vizio di Whitaker, l'alcol, cominciava a emergere. Insomma, Whip Whitaker si era buttato su quell'aereo dopo una notte di bagordi con una bellissima hostess, alcol, sesso, droga, e per riprendersi dall'hangover la mattina, quando era entrato in cabina di pilotaggio, si era bevuto un paio di volte e aveva anche tirato una striscia di cocaina, così da essere sveglio e poter mettere insieme le forze per quel volo. Non era sicuramente in stato perfetto, però aveva fatto un miracolo, però era riuscito a portare a terra 96 passeggeri vivi in una situazione in cui tutti gli altri avrebbero visto morire tutto l'equipaggio e tutti i passeggeri. E questo dilemma è il dilemma che anima il film Flight di Robert Zemeckis, con un grande Denzel Washington protagonista, cioè la storia di come la verità e la giustizia siano spesso due cose diverse. In ospedale, quando sta cercando di riprendersi dai vari danni, il pilota Whip Whitaker riceve la visita di un amico particolare. Sei un eroe, amico. Non pagherai mai più da bere per tutta la tua vita. È pieno di stampa impazzita là fuori. È un circo. Andiamo, riempiti gli occhi. È tutto per te. La classica adorazione dell'eroe. Sei una rockstar, vecchio mio. Oh, guarda questo video. È davanti a casa tua. Uno zoo. Brulica di reporter. Adesso vediamo. Lei conosce il comandante Whitaker? Siete amici? Ah, sì. Sì, è mio fratello. Sono io? Ho buttato lì qualche parola detta con franchezza. Oh, stai bene, comandante Whitaker? Mi danno medicine che mi stordiscono, ho tremori e crisi d'astinenza, non riesco a dormire. Che razza di medicine ti danno? Prazolam, lo Xanax generico, l'idrocodone e il Vicodin generico, magari canadese. Dov'è l'idromorfone? È l'ora del dilettante, chiama un medico, hai appena salvato 100 persone. Harley! Mi ha portato le sigarette? Sì, certo. Sì, ho avuto il tuo cazzo di messaggio e ti ho preso le sigarette. Ecco qui, una stecca nuova nuova. Cazzo, se fosse te me ne accenderei una qui in camera. Insomma, poi uscire dall'ospedale da una uscita d'emergenza e provare a tornare alla propria vita nella fattoria di campagna del padre non sarà semplice. Ci proverà a riuscire Whip Whitaker grazie anche a una ragazza, una tossicodipendente, Nicole, incontrata proprio lì in ospedale, con la quale chiaramente c'è qualcosa di più che una semplice amicizia, ma questa scimmia dell'alcol sulle spalle non lo abbandonerà mai e sarà qualcosa che pervaderà in maniera forte tutto il percorso verso il processo. Come vede, nell'impatto iniziale l'ala sinistra ha toccato terra. Se si fosse staccata completamente, nessuno avrebbe perso la vita. Sì, l'ala si è spezzata, ha spinto la capottatura del motore nella parte posteriore della fusoliera. Sì. Per chi era nelle ultime 6 o 7 file è stato come essere colpito da un treno. Ascolti, è chiaro che l'aereo ha avuto un problema meccanico. Sì, è chiaro. Sì, noi sappiamo che è stata la volontà divina. E io lotterò perché la NTSB aggiunga forza maggiore come una delle possibili cause. Quale Dio farebbe questo? E insomma, ci sarà un duro processo da affrontare e ci saranno colpi di scena fino alla fine. Abbiamo detto ottimo Denzel Washington, molto simpatico John Goodman nel ruolo appunto dell'amico fornitore di merci non legittime, la regia di Zemeckis come sempre solida, qualche momento un po' telefonato, qualche incongruenza, ma insomma è uno che ci ha abituato da Castaway a Forrest Gump, eccetera, a saper raccontare, questo non glielo toglie nessuno. E in questo caso ci riesce molto bene, come dicevo prima, sottolineando proprio questo che è uno degli snodi della cultura americana: dalla parte la necessità di eroi, dall'altra quella di colpevoli, e una simbiosi fra giustizia e verità che molto spesso non sono assolutamente simbiotiche, non sono assolutamente le stesse. La rosa purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, eccoci a parlare di Lincoln, il titolo guida di questo fine settimana, probabilmente anche il favorito per la notte degli Oscar, il ritorno di Steven Spielberg nei cinema italiani in questo caso, ma insomma con il grande schermo, ancora una volta con un rapporto con il soggetto che è tipico di Steven Spielberg, quasi incapace di trattare cose piccole o minimaliste, insomma qui Spielberg racconta un altro snodo della storia, come gli piace fare, mettendosi un po' sulla timeline della storia appunto e cercando di spiegare, di raccontare, di leggere con il suo personale punto di vista quelli che sono appunto gli snodi da cui la storia è partita per diventare altra cosa. E sicuramente quegli ultimi 4 mesi della vita e della presidenza di Abramo Lincoln sono stati lo snodo forse fondamentale per la storia successiva degli Stati Uniti e chissà forse anche dell'intera umanità, perché quell'abolizione della schiavitù trovata e cercata in extremis con tanta fatica, con metodi che diciamo così hanno avuto anche molti eredi politici nei tempi più recenti, cioè il metodo dell'andare a cercare quasi a comprare, anzi leviamo il quasi, a comprare il consenso pur di arrivare in quel caso sì a qualcosa di enorme, che era appunto l'abolizione della schiavitù, il famoso 13° emendamento. Il film Il taglio di Steven Spielberg, che poi sentiremo in alcune dichiarazioni raccontare un po' l'approccio a questo film, perché di Lincoln ovviamente si potevano fare 100.000 film e lui ha scelto 4 mesi, ha scelto proprio quel segmento della vita di Lincoln, è proprio quello di raccontare quel momento. C'è un Lincoln esperto, amatissimo dal suo popolo, ma anche abbastanza osteggiato a livello di famiglia, da una moglie che gli sta accanto ma che fatica a comprendere la sua pervicacia nell'intraprendere certe strade, da un figlio che batte i piedi sul pavimento perché vorrebbe andare a farsi, diciamo, a immolarsi, forse, chi lo sa, sicuramente ad arruolarsi sul fronte di una guerra civile che ormai contrappone in maniera sanguinosa nord e sud, ma che invece viene preservato quasi con amore paterno, e sentiamolo proprio esplodere questo argomento in questo dialogo. Hai richiamato metà degli uomini di Boston. Cosa credi che penseranno le loro famiglie di me? L'unica ragione per cui non mi sputano addosso è che tu sei così amato. Non riesco a concentrarmi sulla legge mercantile britannica. Non mi interessa neanche la legge mercantile britannica. Potrei decidere di non diventare avvocato. È una professione solida. Ed è utile. Sì, e io voglio rendermi utile, ma adesso, non dopo la guerra. Non me li metto quelli, signor Slade, non ci sto comodo. La signora vorrà che li indossiate, non lasciate. Prendi tempo, è la tua tattica preferita. Volete rendere. Ma la guerra sarà finita tra un mese, e tu lo sai. Insomma, il Lincoln privato e il Lincoln presidente, che nel frattempo tesse la sua tela con i suoi adepti, con i suoi fidi seguaci, per portare a casa quella dozzina di voti che permetterebbero appunto l'abolizione della schiavitù. Anche all'interno dei suoi seguaci, anche all'interno dei suoi più stretti collaboratori o di quelle persone a cui deve affidarsi Lincoln per portare a casa il risultato, diciamo così, c'è qualcuno che in famiglia non viene molto ben visto. Signora Lincoln. Madame Presidente, se permettete. Non riunite un'altra sottocommissione per indagare su di me. È una celia. Sorridete, senatore Wade. Infatti sorrido, signora Lincoln. Finché la vostra contabilità casalinga sarà in ordine, madame, non avremo bisogno di investigare. Avete sempre avuto un vivo, persino persecutore interesse per la mia contabilità casalinga. La vostra contabilità è sempre stata interessante. Sì, grazie. È vero. I miracoli che sono riuscita a fare con i fondi per fertilizzanti e posateria, ma dovevo. Avete sentito questo dialogo piuttosto interessante, tra l'altro protagonista maschile, in questo caso un Tommy Lee Jones molto in palla con questo parrucchino d'epoca. Insomma, finirà prima la guerra o finirà prima la schiavitù? Di fronte a questi due nodi centrali si svolge, si sviluppa la trama di un film sul cui diciamo esito a livello critico parleremo fra poco con Boris Sollazzo. Prima però prendiamoci una piccola pausa perché è il momento di giocare. È una situazione difficile. La verità, un po' impaurita. Ok, molto impaurita. Tutto quello che conoscevamo è sparito. Sì, anch'io ho avuto paura. Insomma, non proprio paura. Ero preoccupato. Questa era la prima traccia di un film misterioso che, come tutte le settimane, dovete provare ad indovinare. Diteci di che film si tratta all'indirizzo larosapurpurea@radio24.it, inserendo anche il vostro indirizzo, per provare a vincere l'edizione in Blu-ray di questo film per il primo ascoltatore che indovinerà il sabato e la domenica. Più tardi avremo altre due tracce. Oh, bene, allora torniamo in atmosfera Lincoln. Salutiamo al telefono Boris Sollazzo. Ciao Boris. Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, un filmone, insomma, come si suol dire, un film alla Spielberg, un film Tra l'altro alla Spielberg, ma a mio modo di vedere anche stilisticamente con qualche differenza, provo a metterne giù qualcuna. Per esempio, un film che sta molto attaccato agli attori, sta quasi tutto in interni, non predilige certo le scene di massa, i momenti epici. Certo, ci sono due o tre battaglie della guerra nord-sud, carneficine di questo tipo, ma insomma cerca in maniera quasi teatrale in certi momenti di stare molto addosso agli attori, che sono ovviamente bravissimi, a partire da Daniel Day-Lewis in poi, ha un cast strepitoso. Ancora una volta uno Spielberg che riflette su quelli che sono i momenti che hanno dato uno scarto in avanti alla storia degli Stati Uniti. Sì, in generale forse alla storia del mondo, come dicevi prima tu, perché a me viene facilmente da affiancare questo film anche a Schindler List e a Munich, cioè a momenti in cui il mondo ha cambiato direzione per diversi motivi, e quindi sicuramente è successo. La cosa più affascinante è che Spielberg non cerca, come faceva in altre occasioni, una quadratura del cerchio, anzi non si fa nessun problema a cogliere la contraddittorietà di un uomo che vuole chiudere la mercanzia, il mercato degli esseri umani, facendo un mercato di voti che in fondo è un mercato di esseri umani particolarmente privilegiati. C'è la contraddittorietà che c'è secondo me anche in Catherine Bigelow e in parte in Flight, di un paese che non si fa problemi nel cercare il bene o nel cercare il giusto attraverso metodi sbagliati. Ecco, questo insieme poi all'impostazione cinematografica che tu dicevi, cioè il fatto che Spielberg si dà alla teatralità come mai prima d'ora, diciamo che le due scene di massa forse più imponenti, più importanti sono quelle iniziali e finali. L'iniziale è una battaglia alla Salvate Soldato Ryan, quella finale invece è una distesa di cadaveri, che è pure una scena di massa, anche se non particolarmente viva. C'è questo Daniel Day-Lewis straordinario che io veramente spingo tutti quanti a vedere in originale, perché il doppiaggio italiano non gli rende giustizia. Bravo, bravo, e di questo ti do assolutamente scusa, per ti interrompo perché è una cosa che mi stava molto a cuore, hai fatto bene a sottolinearla. Per carità, Pierfrancesco Favino è un attore strepitoso e anche molto spesso un ottimo doppiatore. A mio modo di vedere in questo caso non c'entra nulla col personaggio, avete sentito anche nella clip che vi abbiamo fatto ascoltare, così piegato su se stesso, così costipato, qui serve assolutamente Daniel Day-Lewis. No, assolutamente, anche perché poi appunto, avendo visto tutte due le versioni, credo che Favino fosse di fronte a una sfida impossibile, insomma, da una parte forse è una delle poche cadute della sua carriera, dall'altra vedendo Daniel Day-Lewis è davvero difficile sia imitarlo che esserne all'altezza, è veramente forse la sua più bella interpretazione, insomma molti dicono che il terzo Oscar sarebbe troppo, ma sarebbe anche molto meritato. Il resto è un film straordinario in cui tutto è perfetta la cosceneggiatura di Tony Kushner, premio Pulitzer e tra l'altro autore di Angels in America, è perfetto David Strathairn, braccio destro tra i migliori di quelli presidenziali visti al cinema, Tommy Lee Jones è meraviglioso, soprattutto in quel finale, in quel sorriso che svela tutta la sua passione politica e non solo. Insomma è un film davvero che secondo me si inserisce nel pantheon delle migliori cose spielbergiane, dove Spielberg tra l'altro, perdonatemi per un regista d'età forse un po' irriverente, davvero non è mai stato così maturo, perché riesce a raccontare il mondo, l'America e determinate decisioni veramente in tutte le sue sfaccettature, anche quelle più scure. E mi sembra che lui, Bigelow e Zemeckis riflettano sugli Stati Uniti e sulla modernità come mai prima d'ora, veramente sono settimane in cui vedremo film grandiosi. E allora andiamo ad ascoltare Steven Spielberg proprio sulla genesi, sulla prima idea di questo film. Well, I didn't know what the actual first moment was, except that Lincoln. Non so bene quale sia stato il vero primo momento. Quando ero studente, Lincoln era uno dei miei personaggi preferiti nel panorama americano, come leader, come modello di comportamento e come pensatore. Ma mi sono veramente sentito coinvolto quando ho incontrato Doris Kearns Goodwin nel 1999 in un convegno su Lincoln. Le ho chiesto cosa stesse facendo lì e lei ha risposto che stava scrivendo un libro sulla Casa Bianca, ai tempi della presidenza di Lincoln. In quel momento ho realizzato che qualsiasi cosa lei stesse scrivendo sarebbe stato un enorme lavoro di narrativa storica e che avrei voluto essere coinvolto in qualsiasi cosa avesse messo sulla carta. Così le ho chiesto: «Prenderesti mai in considerazione di vendermi i diritti per fare il film dal tuo libro?» E lei ha risposto di sì. Quello è stato il primo momento in cui il film è diventato una cosa concreta. Era il 99, un po' di tempo fa. E perché invece, come dicevamo prima, proprio questo segmento della vita di Lincoln? Il processo era che Doris stava scrivendo un libro sull'intera presidenza Lincoln. C'erano così tante cose incredibili che non sapevo su Lincoln, sul suo staff, sui suoi rivali, sulle persone che erano contro di lui prima che diventasse presidente. E proprio grazie alla loro esperienza, lui entrò nell'amministrazione pubblica. Il suo stesso segretario di Stato, William Seward, corse contro di lui, ma Lincoln gli chiese di diventare il suo segretario di Stato. Queste sono tutte storie interessanti e Tony Kushner, che ha scritto la prima sceneggiatura, si è lanciato su queste storie con enorme ambizione, tanto che la prima stesura che ne è uscita era lunghissima, di una lunghezza impraticabile. Però ci è servita a capire che non volevamo fare un film su un monumento che si chiamava Lincoln, ma su un uomo. E per fare questo avremmo dovuto mostrare a tutti com'era vivere e lavorare con qualcuno estremamente importante. E in questo caso ci siamo concentrati sugli ultimi momenti della sua vita, dove aveva dovuto prendere una decisione fondamentale: porre fine alla guerra e cercare di abolire la schiavitù con un emendamento costituzionale, il 13° emendamento. E quello che diventò il tema principale di tutti i suoi pensieri e delle sue angosce, della sua vita personale e di uomo di Stato. Questa storia diventò per noi la migliore opportunità di portare il pubblico dentro il tempo di Lincoln, vivere e soffrire attraverso la sua vita, fino ad arrivare a questa enorme decisione di abolire la schiavitù. Era Steven Spielberg su Lincoln, il suo nuovo film, il super favorito per la notte degli Oscar nei cinema italiani. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, fra poco parliamo di Giornata della Memoria, parliamo di un film che esce proprio in questa occasione, In Darkness. Mi era rimasto un rimasuglio su Lincoln. Una riflessione che avevo fatto è che 2 anni fa uscì il film di Robert Redford, The Conspirator, che raccontava la storia di Mary Surratt, l'unica donna ad essere stata accusata di cospirazione nell'assassinio proprio di Abramo Lincoln. E allora vedete ancora una volta lo snodo. Lì Lincoln come ultimo gesto regala al mondo e agli Stati Uniti soprattutto la liberazione dalla schiavitù, ma proprio dal suo assassinio Redford aveva tirato fuori un altro apologo, quello contro la pena di morte, contro una donna giustiziata forse ingiustamente. Insomma, snodo importante che il cinema americano sente di dover trattare anche nei suoi esponenti anche più popolari, più importanti e più conosciuti al mondo. Chiusa parentesi Lincoln definitivamente, parliamo invece di Shoah. Rimaniamo alla grande storia, quella con la S maiuscola, rimaniamo alla Giornata della Memoria con un film che arriva da una regista che questo tema lo ha sentito, lo ha trattato con Olivier Europa in passato parecchie volte, Agnieszka Holland. Qui siamo nella Leopoli, città che poi è passata all'Unione Sovietica, all'Ucraina, lì era ancora Polonia, durante l'occupazione nazista, ed è la storia vera in questo caso di un idraulico, di un tubista, di un esperto di fognature, insomma di un operaio che come tutti cercava di barcamenarsi, polacco, che prima per come dire, guadagnare 4 soldi e forse anche sfruttare un po' la situazione, poi però con una passione umana e sociale sempre più alta, che la fanno diventare quasi una missione, aiutò un manipolo di ebrei a sopravvivere per 14 lunghissimi mesi nelle fogne sotto le fogne, nei cunicoli fognari di Leopoli, portandogli da mangiare, appunto, prima in cambio di soldi, poi perché aveva capito che quella era la cosa giusta da fare, riuscendo a portarli a casa sani e salvi, una grande famiglia con bambini. Un film che racconta, incredibile come sia ancora possibile raccontare storie e tagli diversi su questa enorme catastrofe che fu la Shoah. Sentiamo la clip e ne parliamo con Boris Sollazzo. È un piacere vederti. Di lui ci si può fidare. Alla tua. Alla salute. Salute. Ormai non esiste più un posto per noi. Mi spiace per quella gente. Gli ebrei sono esattamente come noi. Sentite, conosco le fogne meglio di mia moglie. Quanto volete? 500 zloty al giorno. Giornata dura. Una settimana fa sua moglie non aveva soldi. Danno una ricompensa a chi denuncia un ebreo. Alcuni stanno facendo un mucchio di soldi. No! Dio punirà gli abiti. Ho trovato degli ebrei! Gli ebrei! Ho trovato degli ebrei! In tutto questo tempo hai nascosto degli ebrei, mi hai preso in giro. Tu mi hai tradito! Sto rischiando la vita e con me anche la mia famiglia. Non devi mollare mai, d'accordo? Boris, un film che tratta l'argomento, tra l'altro, senza sentimentalismi, con una regia molto molto fredda e però capace di suscitare quello che deve suscitare nello spettatore. Come dicevo prima, ancora la capacità del cinema di trovare angoli, punti di vista originali e mai raccontati su questa enorme tragedia. Esatto, devo dire che secondo me da una quindicina d'anni a questa parte, da quando Benigni ha fatto La vita è bella e Mia Eleano Trendevi, si è deciso probabilmente, o è venuto naturale, che l'Olocausto non venisse più raccontato con grandi affreschi, come abbiamo citato quello prima di Spielberg, che ne cogliessero la complessità dell'orrore, ma piuttosto con piccoli ritratti quotidiani anche, di quell'orrore stesso, cogliendo delle piccole storie che piccole non erano affatto. Penso anche poi a quelle che sarebbero venute in seguito, come Il falsario e tanti altri racconti, anche Ma in fiore di Dani Levi, dove si va a pescare solo una parte di tutto questo affresco mostruoso. E Agnieszka Holland lo fa con il suo stile, che ovviamente non è quello magari più gaio di Mia Eleano e Benigni, neanche quello del falsario, ma è uno stile freddo, molto rigoroso, poi forse non freddo, semplicemente appunto rigoroso, guarda quello che è successo, perché quello che è successo basta a farti male e allo stesso tempo a darti speranza attraverso quest'uomo che vuole speculare semplicemente su questo manipolo di ebrei e poi si rende conto, un po' come lo Schindler, che alla fine di Schindler List si rende conto che se avesse venduto la macchina o la spilla avrebbe potuto probabilmente salvare altri 10, 20, 30 ebrei. Lui allo stesso modo trova una motivazione che va ben oltre i 500 zloty al giorno che sentiamo nel trailer. E io devo dire che questo sottogenere del cinema dell'Olocausto lo amo di più, perché per esercitare la memoria secondo me bisogna partire dalle piccole cose, che piccole non sono, e queste storie sono più vicine di quelle che purtroppo risultano quasi non credibili nella loro enormità, anche se è successo, come spesso accade nel cinema, poi rappresentarlo diventa difficile. E invece se si raccontano queste storie l'immedesimazione è immediata, sappiamo che può essere successo a noi o a un nostro antenato senza problemi, perché è talmente evidente quanto la normalità sia stata stuprata in quegli anni, in quei mesi, che non ci si può non far coinvolgere. Quindi devo dire, ho apprezzato moltissimo questo film della Holland, francamente questo fine settimana è davvero straordinario come uscita cinematografica. Perfetto, e questo allora era In Darkness di Agnieszka Holland. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a te, alla prossima. E allora adesso, prima di parlare di Quartet, un film molto molto interessante, anche questo molto commovente, firmato Dustin Hoffman per la prima volta dietro la macchina da presa, giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Oh, ma che vacanza magnifica, la migliore che abbia mai fatto. Buongiorno, splendore! Voglio tenderti la mano come segno della mia amicizia. La Rosa Purpurea @ radio24.it, di che film si tratta, vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray per il sabato e una per la domenica di questo film, del quale fra poco ascolterete la terza e conclusiva traccia. E allora sulle note, sulla voce sempre magica di Maria Callas, di questa Traviata, perché? Perché Quartet, l'esordio alla regia di un grande attore, di Dustin Hoffman, ci porta dentro un contesto che è proprio quello del mondo dell'opera, visto con gli occhi di artisti, professori d'orchestra, cantanti lirici, che sono ormai, diciamo, negli ultimi anni della loro vita, sono anziani e vivono in una enorme, bellissima casa di riposo per musicisti, la Beecham House, nella campagna inglese. Tra l'altro, il che mi fa pensare a una vecchia visita che feci una volta alla casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi, proprio a Milano, che lo stesso Giuseppe Verdi volle per ospitare chi appunto aveva dato la vita all'arte della musica. E un brivido arriva quando entri in questi ambienti così pieni anche di passati, di storie da raccontare, di gente che ha calcato palcoscenici in tutto il mondo. È un po' quello che ti arriva addosso quando ti trovi di fronte appunto a questa scena voluta da Dustin Hoffman. Siamo appunto in Inghilterra. Ogni anno, in occasione dell'anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, gli ospiti organizzano un concerto, un galà, per esibirsi di fronte a un pubblico vero, pagante, per sostenere la casa di riposo e evitarne, insomma, lo smantellamento, la chiusura. In questo caso raccontato dal film, arriva, viene chiamata a cantare una riottosa e anziana star della lirica. La maggior parte dei nostri ospiti alloggia al piano superiore. Quello è Sir Thomas Beecham, uno dei nostri più grandi direttori d'orchestra. Sì, so benissimo chi è. Ereditò una fortuna. Suo nonno produceva lassativi. Intitolargli una casa di riposo è spaventosamente appropriato. Quei fiori sono per darle il benvenuto. Li farò portare nella sua camera. È un vero onore averla qui. La camera è come quella di Anne Langley. Oddio, è qui anche lei? Una bella suite in quella che chiamiamo ala B. Beh, praticamente una prigione. L'ascensore purtroppo è in riparazione, però abbiamo un montascale. È comodissimo per salire. Un montascale? Quando sarà rotto anche quello, useremo degli sherpa. Brava! Brava! Ecco che l'arrivo alla casa di riposo appunto di Jane Horton, una grandissima Maggie Smith, sconvolge un po' quella che è la normale, quieta, il quieto tran tran di questa casa di riposo per musicisti, anche alla vigilia del famoso concerto verdiano, perché gli altri, Reggie, Wilf, Sissi, hanno degli equilibri fra di loro che, per motivi che ovviamente non vi raccontiamo, l'arrivo di Jane sconvolgono, rompono, rimettendo in moto anche pulsioni, sentimenti, passioni che sembravano definitivamente sopiti. È un film davvero toccante, commovente, magari non perfetto a livello di regia, o forse troppo convenzionale, finché volete, a tratti magari anche un po' televisivo, ma è interessante che Dustin Hoffman si sia buttato dietro la macchina da presa proprio per un progetto di questo tipo, che ha sicuramente dentro i contenuti il lato migliore, magari più che dietro la loro messa in scena, però è un film che non ti lascia mai, per cui ti appassioni, perché siamo sempre al racconto della vita quando la vita sta finendo, quando è sul viale del tramonto, e quindi al guardare anche ai propri rimpianti, anche a quello che è rimasto inespresso, che è rimasto inevaso e che magari si riaccende proprio come in questo caso grazie alla visita di questa cantante. Gli attori sono straordinari, davvero, dal primo all'ultimo, tutti attori inglesi, cast inglese, Maggie Smith appunto, ma Albert Finney, Tom Courtney, Billy Connolly, sono uno più bravo dell'altro, ma del resto la scuola inglese di quella generazione è straordinaria per uno spettacolo, per 98 minuti di grande musica e anche di risate davvero sincere in questo affresco di un mondo che si guarda alle spalle e vede che è rimasto tanto terreno fra la propria gioventù e il proprio presente. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, è il quarto blocco, la quarta parte del nostro programma, quella dedicata al cinema da vedere in casa. E siccome appunto siamo, l'abbiamo visto anche, ne abbiamo parlato prima, abbiamo fatto degli accenni con Agnieszka Holland, col passato di Spielberg, insomma, alla grande storia, al giorno della memoria, abbiamo voluto segnalare con gli amici di Film TV un paio di film almeno che hanno a che fare comunque con il centro e le ragioni di quella tragedia. E allora saluto in collegamento telefonico Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Allora, dicevamo, nella settimana in cui arriva Lincoln sugli schermi, in TV, domenica 27 gennaio alle 21.05 in prima serata, Iris ci propone Schindler's List, che è sempre un film da vedere in ogni caso, e poi durante la settimana arriva anche il momento di un film fra i più raffinati del cinema italiano per raccontare quello che è stata la dittatura, quello che è stato il fascismo, ovvero Una giornata particolare. Esattamente, quindi domenica 27 alle 21.05 su Iris, Schindler's List, e martedì 29 alle 14.15 su Rai Movie, Una giornata particolare. Iniziamo con Spielberg, che racconta la storia di Oskar Schindler, che nella Cracovia del 39 converte una fabbrica confiscata agli ebrei nella produzione di stoviglie per l'esercito, sfruttando a basso costo la manodopera dei perseguitati, salvo poi, conscio delle crudeltà assurde dei nazisti, salvare 1.100 persone da Auschwitz. Oscar ed è cinema hollywoodiano che sa essere pudico di fronte alla tragedia, dimostrando come i grandi registi sappiano coniugare sia lo spettacolo che l'etica. Mentre Una giornata particolare di Ettore Scola è quella del 6 maggio del 1938, giorno dell'arrivo di Hitler a Roma. Tutti i fascisti sono mobilitati e intanto due persone, un omosessuale e una casalinga, si incontrano in un dramma psicologico, come dicevi giustamente, raffinatissimo, che dice e smaschera la farsa del fascismo. Uno dei film più belli di Ettore Scola. E allora andiamo a vedere, quindi a riepilogare gli appuntamenti: 21.05 su Iris, domenica 27 gennaio Schindler's List, martedì 29 alle 14.15 su Rai Movie invece Una giornata particolare. Teniamo quasi un filone con la politica raccontata al cinema, con i grandi personaggi, perché venerdì 1 febbraio su Rai Storia c'è il caso Mattei. Esattamente, venerdì 1 febbraio alle 21 su Rai Storia il caso Mattei. Da uno dei casi più clamorosi della storia d'Italia del dopoguerra, ovvero l'ascesa inarrestabile di Enrico Mattei e la sua misteriosa morte, un film giustamente celebre, Palma d'Oro a Cannes nel 72, in cui Francesco Rosi coniuga la tradizione del film d'inchiesta all'elaborazione in chiave spettacolare dei motivi più documentaristici e politici. Un film dall'impianto civile molto acuto, composto anche da materiale d'epoca e animato da un gigantesco Jean-Marie Volonté. E allora l'appuntamento per il caso Mattei su Rai Storia alle 21 venerdì 1 febbraio. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora, dopo le segnalazioni con gli amici di Film TV, avete preso appunti, mi raccomando, è il momento di giocare con la terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Loro volevano ritrovarti solamente per scaricarti nonnina. Oh dai, tu credi che esista una famiglia così squilibrata da scaricare la vecchia nonnina? È davvero assurdo, è davvero la mia famiglia. E beh, qui insomma, diciamo così, che abbiamo praticamente detto nome, cognome e indirizzo del film, ma diteci voi invece di che film si tratta. La Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica. Andiamo a risolvere invece il quiz della scorsa settimana, che ha avuto grandissima partecipazione davvero, sia il sabato che la domenica, anche nelle repliche notturne. Questa era la clip. Il mio nome è Ada Wong, operativa per l'Umbrella Corporation e una delle migliori agenti di Albert Wesker. So esattamente chi e che cosa sei. La vera domanda è: perché non cancello immediatamente la tua identità? Io non lavoro più per l'Umbrella ormai. E allora si trattava di della saga, perché avevamo giocato con una saga, quella di Resident Evil, perché in palio c'era il favoloso cofanetto con i 5 film della saga, compreso Retribution, l'ultimo uscito. I più bravi del sabato e della domenica, vince il Nord-Est in questa puntata, sono stati Giorgia Menegalle di Albignasego, in provincia di Padova, e Francesco Zanetti di Trento. Riceveranno appunto questo cofanetto con tutta l'intera saga, almeno finora, in Blu-ray di Resident Evil, che noi ci facciamo raccontare dal nostro Claudio Poffi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, da Sony Pictures Home Entertainment, questa Resident Evil Collection, cofanetto che racchiude i 5 film della saga in alta definizione, saga almeno inizialmente ispirata all'omonimo videogame survival horror nato nel 96 sulla prima PlayStation. Sono 5 Blu-ray di eccellente qualità video, tracce audio multicanale ad alta risoluzione, per fortuna non solo in inglese ma anche in italiano. È veramente uno spettacolo per tutti e 5 film, tra musiche ed effetti. Ogni disco è accompagnato da numerosi extra che consentono una ampia retrospettiva sulle produzioni. Ci sono approfondimenti su effetti speciali, sequenze di stunt, scenografie, scene eliminate, commenti degli autori e del cast, fino agli errori sul set. Nello specifico l'ultimo per ora capitolo, ovvero Retribution, è disponibile anche in 3D separatamente, nel cofanetto si trova solo in 2D. E allora, questo era quindi il game della scorsa settimana, Resident Evil, il cofanetto. Noi andiamo invece a raccontare le novità in videoteca, partendo da un film che è interpretato da un attore che da lì a poco sarà diventato una vera star di prima grandezza, ovvero Michael Fassbender, nei panni di Bobby Sands nel film Hunger. Quindi a che servirebbe la tua morte? A mettere sotto i riflettori l'intransigenza inglese? A che cazzo serve? Tutto il mondo sa come sono gli inglesi. Bene. Sì, è un bene e non ha niente a che fare con te. Hanno un curriculum di merda lungo centinaia di anni. Ha aperto un certo astio, padre. Ma tu vuoi diventare un martire? No. Sei sicuro? Sì. Perché ti ho sentito fare l'elogio di uomini come Wolfton, Connolly, McSwiney. Mi viene da pensare che tu voglia scrivere il tuo nome sui libri di storia. Crede che sarebbe importante per me? Oh, io lo so che è così. No, si sbaglia. Siamo nei primi anni Ottanta in Irlanda del Nord, a causa dell'abolizione dello statuto speciale che li riconosceva come prigionieri politici, detenuti dell'Irish Republican Army intraprendono una serie di proteste guidate dal leader Bobby Sands, che in seguito darà il via a uno sciopero della fame che porterà lui e altri 9 membri dell'IRA verso l'inevitabile autodistruzione. Primo lungometraggio per il regista britannico Steve McQueen, opera di straordinario impatto emotivo, grafica dalle tinte fortissime per raccontare in modo diretto e senza artifici le scelte estreme legate alla lotta per la libertà tra ritmi angosciosi e roboanti silenzi. Straordinario Michael Fassbender nel ruolo di Bobby Sands, tra l'altro attore tedesco ma di origini irlandesi. Da Big Comedia, distribuzione però solo DVD di buona qualità di insieme, doppia traccia audio Dolby Digital multicanale per l'italiano e 2 canali per l'inglese. Sono entrambi da provare per assaggiare il differente mood del racconto. Come extra segnalo un interessante making of di 13 minuti. E questo era appunto Hunger. Noi andiamo avanti perché invece, mentre nelle sale sta scuotendo il botteghino il Django Unchained di Quentin Tarantino, in Blu-ray arriva il Django, diciamo così, fra virgolette, originale di Sergio Corbucci con Franco Nero. Tu paghi per avere la sua protezione? Io pago per non essere ucciso come quelli che lui chiama inferiori perché hanno la pelle un po' più scura. Anche il sole fa diventare scura la pelle. Sì, ma Jackson e i suoi non vogliono ammetterlo. Hanno una specie di religione. Hai visto i cappucci rossi che si mettono? Sono dei fanatici, dei pazzi. A volte bisogna eliminare i fanatici, i pazzi, per il bene di tutti. Lo so, ma non puoi farlo tu da solo. Io non sono solo. In un piccolo e remoto paese al confine tra Stati Uniti e Messico, testimone dei sanguinosi scontri tra una setta razzista e dei messicani che sognano la rivoluzione in Messico, giunge l'ex soldato nordista Django, che viaggia a piedi, trascinando una bara, deciso a vendicare la moglie assassinata. Era il 1966 quando il compianto regista Sergio Corbucci realizzava uno dei cult spaghetti western per eccellenza, tanto amato in Italia quanto all'estero, anche per la colonna sonora del maestro Luis Enriquez Bacalov, che firmava all'epoca la sua prima e unica collaborazione musicale con Corbucci. La CG On Video, la nuova edizione Blu-ray in alta definizione, di qualità sicuramente superiore al DVD, è un disco comunque imperfetto ma che migliora decisamente la visione sino ad oggi possibile, con una traccia audio monofonica ad alta risoluzione in italiano e in inglese. Come extra segnalo un documentario prodotto da Nocturno dedicato al film, ma ricordo che anche all'estero l'opera è disponibile in alta definizione con ulteriori extra. E allora grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto! E siamo arrivati alla conclusione con le segnalazioni in on video. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, come facciamo tutte le settimane. Siete sempre di più, aumentate di giorno in giorno. La Rosa Purpurea Radio 24 su Facebook. Cliccate mi piace, entrate nella nostra comunità. Tutti i giorni novità, classifiche, la puntata in podcast. E soprattutto dite la vostra sui film che avete visto. Grande dialogo, grande fermento con i nostri ascoltatori. La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace per unirvi alla nostra comunità. Grazie a Giorgio De Luca che ci ha aiutato in redazione, a Paolo Corleoni qui in regia. Un saluto e un appuntamento alla prossima settimana. Da Franco D'Assisi.